men bello caute meno, quello garzu che men me promeno, quello garzu che men per voi su, quello garzu che men me promeno, quello garzu che men per voi su, lo mario plulo plulo lo be mai, su no mollo chito non tu non rozzo mai, lo mario plulo plulo lo be mai, su no mollo chito non tu non rozzo mai, notti e sporti, e non portano lo bello e di son comi, a truno con su, notti e sporti, e non portano lo bello e di son comi, a truno con su, caute meno bello, caute meno, caute meno bello, caute meno, quello garzu che me me promeno, quello garzu che me per voi su, quello garzu che me promeno, quello garzu che me per voi su.